we gonna do? There's a new thing that's going around, and I'll tell you what they're putting down. Just move your body all around and just shake. Oh, backbone slip, move your body like a whip and just shake. That's doing it. Shake, yeah, you're looking good now. Shake, don't do it, baby. Shake, yeah. Oh, ding a ling a ling, your body shaking is the latest thing. And if you want to swing, just shake the shake with all your might. Oh, if you do it right. Just make your body loose and light. You gotta shake. Eccolo, il Faurisi è qua, torna al microfono di Rock FM perché è stato al telefono a parlare con ascoltatori che hanno seguito l'intera trasmissione e che ancora non riescono a capacitarsi di questa brutta cosa che ci sta avvenendo. Qualcun altro, tipo Valerio da Pisa, che si sveglia per andare al lavoro e dice: ma che gran bel risveglio. Qualcun altro da Firenze dice: ho i brividi, run, run, run. E insomma, ancora tanti a seguire questa lunga notte di rock and roll. E la portiamo avanti, pare che siano arrivati gli ascoltatori genovesi che tre ore fa circa avevano promesso che sarebbero venuti qui a fare colazione con noi. Pare che abbiano citofonato giusto in questo momento. Che famiglia la nostra, eh? Should I worry when we're apart? It's a lover's question I'd like to know. Does she need me as she pretends? Is this a game? Well, then will I win? It's a lover's question I'd like to know. I'd like to know when she's not with me, if she's still true to me. I'd like to know when we're kissing, does she feel just what I feel? And how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? Well, it's a lover's question I'd like to know. I'd like she feel just what I feel? And how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? It's a lover's question I'd like to know. I'd like to know. I'd like to know. A lover's question è proprio una faccenda d'amore la nostra, vero o non è vero? Un salutone ancora a Roberta, un salutone ancora a lei e un saluto anche a chi dice di voler approfittare per fare una richiesta. I Clovers, oh ragazzi, alle 6:40 circa arriva una richiesta dei Clovers. E se questo non è amore, e se questo non è amore, che cos'altro può essere? That's amore, oh yeah, oh yeah. Moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Oh, when the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring and will swing, let them ring and they'll sing Vita Bella. Fella, well, those stars make you drool just like pasta fatule. That's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Love, love, love, love, love, baby. When you walk in a dream and you know you're not dreaming, signore. Ah, scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Just like pasta fatule, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Love, love, love, love, love, love, baby. When you walk in a dream and you know you're not dreaming, signore. You ain't dreaming, baby. Ah, scusa me, but you see, back in old Napoli, that's a mare. Oh, love, excuse me, but you see, back in old Napoli, that's a mare. Yeah. Beh, è vero. Il nostro Re Gelato non ha trovato molto spazio in questa trasmissione, l'ha trovato soltanto adesso. Sì, in effetti abbiamo dedicato più al rock and roll che al swing e al jive questa lunga notte di Good Rockin' Tonight. E allora la richiesta che è arrivata alle 7:20, quella dei Clovers, come si fa a rispondere negativamente? E i Clovers non potevano non essere nella carriola col quale Faulisi ha raggiunto Rock FM un po' di ore fa. Ci sono anche loro con Devil or Angels. Devil or angel, I can't make up my mind which one you are. dancing. Clovers, ragazzi, quale altra radio, ditemelo dai, quale altra radio può vantare di avere degli ascoltatori che richiedono i Clovers, eh? Ditemelo un po'. No, non ce ne sono, non ce ne sono davvero. Eddie Cochran per voi da Rock FM alle 7:15. Come on everybody, una delle canzoni che nell'immaginario collettivo hanno una maggiore presa, sono quelle canzoni che non è necessario essere appassionati di anni 50 per sentirle proprie, sì è proprio così. Questo era Eddie Cochran dalla California, la grande musica di Eddie Cochran, ottimo chitarrista, aveva tutte le qualità, ma davvero tutte, e scriveva delle canzoni che erano dei gioielli. Aveva il dono, come tanti altri della sua generazione, come Buddy Holly in particolare, a scrivere delle cose originalissime e mettere in due minuti delle vere idee, delle grandi idee. Era un grande tecnico perché lavorava tanto di sovraincisione, è stato uno tra i primi a sovraincidere. Entrava in studio e metteva chitarre su chitarre e veniva fuori queste bellissime canzoni come quella che abbiamo ascoltato, Come On Everybody. E ora torniamo alla voce femminile di Ruth Brown. Non ci poteva bastare una sola canzone in 10 ore e naturalmente arriva la seconda che porta il titolo di Lucky Lips. You C'è ragazza che cominci a suonare, a cantare rock and roll anni 50 che non abbia il dovere di cimentarsi con qualcosa di Ruth Brown, particolarmente questo Lucky Lips. Allora, Frankie Lymon e i suoi Teenagers. Lui era proprio un ragazzino e ha avuto una grande fortuna, quella di incidere delle canzoni e avere un grande successo quando era giovanissimo, e però poi questo successo si è man mano è scomparso, si è affievolito fino a non, la fortuna non gli ha più sorriso e lui ha imboccato una brutta strada, quella, la strada della droga, e lo ha stroncato ancora giovane negli anni 60. Ha inciso delle belle canzoni e ci sono delle buone raccolte che includono tutto quello che ha fatto. Ne posseggo una qui davanti a me di ben 25 pezzi che a parte qualcosina il livello è sempre molto alto, e voglio ancora una volta e voglio sperare che verso gli appassionati più esperti voglio sperare di non sembrare troppo banale presentando ancora una volta quello che è stato il suo brano di più famoso, quello che l'ha reso famoso, ma forse è giusto così, insomma, forse è giusto così, è il brano che lo ha lanciato e quindi ce lo ascoltiamo. Why Do Fools Fall in Love, sono Frankie Lymon and the Teenagers, tra l'altro anche loro hanno fatto parte della colonna sonora del film American Graffiti. Frankie Lymon. Fools Fall in Love, proprio lui, Frankie Lymon and the Teenagers, rimaniamo nello stesso periodo. Coincidenza, si parlava poco fa di American Graffiti. Vado a prendere una canzone, un'altra canzone dalla colonna sonora di American Graffiti. Una canzone dei Flamingos, che è stato annoverato come uno dei migliori, una delle più importanti formazioni di doo-wop americano del periodo. I Flamingos hanno fatto una canzone in particolare, hanno registrato una canzone in particolare che è rimasta negli annali. È una canzone, come dire, perfetta, semplicemente perfetta. Perfetta nella costruzione armonica, perfetta nell'arrangiamento, assolutamente perfetta. Non si può aggiungere nulla, non si deve togliere nulla, va lasciate così. E chi ha provato a cimentarsi con questa canzone e si è rivelato assolutamente perdente. Questa è una canzone dei Flamingos e guai a chi la tocca. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Aveva ragione il Faulisi oppure no? Questa è ai Flamingos. Sì, se chiedo il parere a chi ha scritto poco fa questo SMS, mi dà ragione. Mi è arrivato un messaggio che dice semplicemente: stavo per chiedere i Flamingos. E io sono pronto a scommettere che questo ascoltatore sta dicendo la verità, perché abbiamo un'intesa, siamo nella più perfetta sintonia. Polanca, Polanca, Polanca, con gli striscioni stanno chiedendo a viva voce Polanca, e Polanca Se lo scrivete così, tutto in maiuscolo e tre volte, allora non posso che darvi retta. Ma non prima però di un artista meno conosciuto, Boyd Bennett, che con i suoi Rockets faceva un po' il verso a Bill Haley, The Comets. Lui era bravissimo, il gruppo era buono, non aveva le doti tecniche dei Comets, ma certamente erano divertenti. Hanno avuto decisamente meno fortuna dei Comets e di Bill Haley, ma comunque anche loro si sono divertiti, è vero, e ci fanno divertire ancora. Dalla King Records, Boyd Bennett con i suoi Rockets e 17. Ain't no square. 17, hot rod queen, cutest gal you've ever seen. Hello world, I'm really keen on the hip cat doll of 17. Dalla King Records abbiamo ascoltato Boyd Bennett con i suoi Rockets. Eh sì, arriva anche Polanca, l'abbiamo trovato, era finito nella quarta colonna di dischi in fondo a sinistra. L'abbiamo ascoltato stanotte l'abbiamo ascoltato con Put Your Head on My Shoulder, una canzone che è finita anche nei dischi di Michael Bublé. La canzone che invece vi faccio ascoltare adesso è quella, sì, l'avete capito. Vi leggo un messaggio. Ciao Maurizio, che ne dici di venire a ciao Maurizio, che ne dici di venire a trovarci giovedì prossimo dalle 21:30 al Country Club di Piazza Napoli 25 a Milano per una serata dedicata alla musica country. Ti aspettiamo, firmato la tua fan Silvia. Silvia, io il giovedì prossimo alle 23 parte l'ultima trasmissione di Good Rockin' Tonight di... L'ultima trasmissione di Good Rockin' Tonight qui a Rock FM, e non solo, ed è l'ultima trasmissione di Maurizio Faulisi dopo 15 anni a Rock FM. Credimi, neanche se mi date $1,000,000. Ma ci verrei, sono comunque con voi, però sarò qui. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. When you hold me close, oh my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh Diana, can't you see? I love you with all my heart. you hold me in your loving arms. I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana. E questa era per Silvia, che mi invita nel suo locale a Milano. Sì, verrò, credimi, verrò molto presto, subito. Fra qualche tempo, dopo che sarà chiusa l'avventura, la lunga storia di Rock FM, farò un giro dalle tue parti e verrò a bere il caffè nel tuo locale, garantito, ci puoi scommettere. E sì, allora c'è un Polanca, potrà mai non esserci un Neil Sedaka? Victory, poor little fool. Oh yeah. Ricky Nelson, lui, proprio lui, Ricky Nelson, quel grande artista conosciuto nel mondo intero anche grazie, anzi soprattutto grazie alla sua attività cinematografica, e nacque nel 1940 nel New Jersey e scomparve l'ennesima morte a causa di un disastro aereo nel 1985. Nel 1985 morì Ricky Nelson, incise nelle bellissime canzoni negli anni 50 che raggiunsero i posti più alti delle classifiche. E con Ricky Nelson piano piano ci siamo riavvicinati a quello che è il suono classico degli anni 50, dopo quella puntatina nel pop, sempre piacevole da ascoltare, ma comunque decisamente pop, di Diana e O'Carroll. Quindi in questi ultimi tre quarti d'ora, perché mi pare siano le 7:15, se non vado errato, 7:10, 7:15, credo sia a questo punto doveroso a tornare sui registri che hanno aperto e abbiamo avuto all'inizio della trasmissione, ovvero grande rock and roll, di quello più cattivo, di quello più aggressivo. E quando si parla di rock and roll, andiamo a scomodare lui, ancora lui, sempre lui, The Killer from Louisiana, Mr. Jerry Lee Lewis. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes, for the jukebox blow the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Bopping at the high school hop, taking at the high school hop. High school hop, we're rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the rhythm, sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bobbing at the high school hop. Bopping at the high school hop, we're shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, bopping at the high school hop. Now let's go. Gonna give you some good news. Look at here, speak to mama, let the burn off off my shoe. Hey, my heart that beat the rhythm, my soul is singing the blue. Well, I'm popping at the high school hop, popping at the high school hop, we're jumping at the high school hop, we're rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go. High School Confidentials, era Jerry Lee Lewis. Tenetevi forte, avete allacciato le cinture di sicurezza e si va dritti, dritti, spediti ancora lì nella stessa zona. Siamo nel sud-est degli Stati Uniti a trovare il Rock and Roll Trio. killer, il killer lo stiamo per ascoltare ancora, perché è dell'ultimo disco, quello del The Last Man Standing, ne abbiamo ascoltate soltanto uno e sicuramente tornerà prima delle 8, dopo aver ascoltato magari Jim Vincent. Che ne pensate? But I'll have it from the devil on judgment day. I say, I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man down the line. Oh yeah. Well, me and the devil sitting at a stoplight. He started rolling all the side of the sun. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man down the line. Oh yeah. Well, going pretty fast, I look up behind. Here comes the devil doing 99. I'm saying, I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man down the line. Let's hang on. The race was won. Here come the devil doing 100 more. I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man down the line. Let's play again. Here come the devil doing 99. I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man down the line. Come on, yeah. Well, I've led an evil life. I didn't say, but I'll have from the devil on judgment day. I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man down the line. Race with the Devil era il bravo Gene Vincent con Cliff Gallup alla chitarra, uno dei migliori chitarristi che gli anni 50 abbiano potuto consegnare alla storia della musica rock, e quindi abbiamo ripreso con il rock and roll grazie a Jerry Lewis e poi il rock and roll trio, quindi ancora con Gene Vincent, e vogliamo tornare sul disco di cui vi accennavo poco fa, il disco del Killer, The Last Man Standing, dove intorno a lui si sono così avvicinati un plotone di musicisti di fama internazionale, persino lui, e non poteva certamente mancare il boss Pink Cadillac, Bruce Springsteen insieme a Jerry Lee Lewis. Come on, come. E Jerry Lee Lewis se ne va sulla Cadillac Rosa del boss di Bruce Springsteen, che ha accompagnato The Killer in questo classico del repertorio del grande rocker newyorkese. Chiedono una Ring of Fire di Johnny Cash, e noi l'abbiamo. Non nella versione originale, non ho portato dischi country, ma soltanto dischi di rock and roll. E quindi è una cover che ha una molto vicina al rockabilly, ma sempre Ring of Fire era, e sicuramente sarà apprezzata perché è Billy Burnett a eseguirla. Insomma, con un cognome come questo è una garanzia. Ring of Fire, Billy Burnett. Basta forse avere il cognome Burnett? Ma magari sì, magari sì. Billy Burnett alle prese con il classico di Ring of Fire di Johnny Cash, The Man in Black. Ma quanti siete lì fuori ad amare Johnny Cash? No, per capirlo, perché Perché una volta, un po' di anni fa, Johnny Cash era seguito soltanto da chi seguiva appunto la musica country con rigorosa e religiosa passione. Adesso fortunatamente, non lo dico mica in senso negativo, fortunatamente si è diffusa la voce, e quindi Johnny Cash è diventato di dominio pubblico, ecco. Sentite, sono 7:30, manca soltanto mezz'ora alla conclusione di questa notturna. Che qualcuno fermi l'orologio, che qualcuno lo blocchi. Stop the clock, stop the clock. Well, all day long, the time drags by, but when I'm with my baby, where you ought to see it fly, we gotta stop the clock, baby. From a dance, we didn't have time for a little romance. We gotta stop the clock, baby. We gotta stop the clock, baby. We gotta stop the clock, baby. Wanna spend more time with you, with you. Well, I was our dream, when I was in her arms, when suddenly I woke up. We were having a ball with the cats downtown. The hands on the clock just zoomed around. We gotta stop the clock, baby. We gotta stop the clock, baby. We gotta stop the clock, baby. Wanna spend more time with you, with you. Oh, well, when I got home, a dad met me. He said, now, son, here's a witness tree. We gotta stop the clock, baby. We gotta stop the clock, baby. Spend more time with you. Spend more time with you. I Blasters, i Blasters, mai abbastanza ringraziamenti verso i Blasters. Allora, si va avanti ancora con quel nome, il nome di Brian Setzer, che l'abbiamo ascoltato con gli Stray Cats, l'abbiamo ascoltato in quella bella raccoltona dedicata alla Sun Records, non l'abbiamo ascoltato, perché è giusto che sia così, insieme alla Big Band, alla sua grande orchestra, perché stasera è rock and roll, stasera, continuo a dire stasera, ragazzi, mi sono fermato. Cominciando la trasmissione alle 22 di sabato e concluderla alle 7:30, sono le 7:30, alle 8 del mattino di domenica, vuol dire avere un po' un problema da jet lag, evidentemente. Che qualcuno faccia qualcosa per me. Tipo, non so, Brian Setzer, cantami qualcosa tipo Get I'm on the Road. Get him on the rope, questo era lui, era Brian Setzer, quel grand'uomo di Brian Setzer che si sta affilando la sua chitarra, perché fra pochi mesi, quanti? 3 o 4? Siamo, in che mese siamo adesso? Maggio, pare sì, siamo alla fine di maggio. È giugno, è luglio, e sono 2 mesi e mezzo. Fra 2 mesi e una ventina di giorni il signor Brian Setzer atterrerà in Italia con i suoi 2 scagnozzi e ci spaccherà tutti quanti, veramente. In agosto suonerà alla Summer Jamboree e il signor Diliberto, Angelo Diliberto, organizzatore del festival che abbiamo avuto l'onore di ospitare in una delle trasmissioni Good Rockin' Tonight, lui sì che potrà sentirsi davvero orgoglioso per quello che sta facendo. L'anno scorso ha portato in Italia Jerry Lee Lewis, quest'anno la reunion, o comunque il concerto di addio di quella grande band che è stata gli Stray Cats. Bene, proseguiamo, abbiamo ancora una manciata di canzoni da proporre e sicuramente in questa manciata non può mancare lui, Mr. Buddy Holly. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all be. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day.